Ken ker ke te den de sten a Santa Maria da malie verra pore da questa ve o asi tempa en gascogna che io ia donavo vi te poca vergogna che sol non ti nia en ven ir en Romaria a tantera de malse Essa mozza di sé, dicendo per via figlia stessa che prol non ten. Perché tenente stena Santa Maria, gran maniere rapore. E poi sconcherere si rennuglia manera, e lejare me comprir a che sta carrera. Sandia, che io non mi reda che. Se ma se la non seguirem che assentata.